140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco la protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Studi di Radio 24, Milano. Su Netflix, Okja, la storia di una ragazzina contro il mondo per salvare il suo amico, un buffo animale OGM. Con noi la grande Tilda Swinton. So I was very emotional when I saw this movie, Okja. Mi sono emozionata molto guardando questo film, Okja. Ho riso, ho pianto, mi sono innamorata del super maialino Okja. È una nuova ET o maialino babe, cosa? Maybe someone said babe. Babe on acid. Forse sì. Qualcuno dice babe sotto acido. Io sono d'accordo. You are the fool. Sei il fool, il matto in Okja. Sei adorabile. Tilda Swinton è una donna adorabile, ma in questo film. I'm a fool. I'm a very misguided individual called Lucy. Sì, il fool. Sono Lucy Mirando, un'ereditiera. Sono una persona che commette errori. Voglio fare qualcosa di buono per il mondo, ma non capisco che per questo dovrei abbandonare il mio legame con le ricchezze. E per questa ragione divento una sfruttatrice. Ma Lucy è molto buffa. Ci sono molti personaggi buffi in questo film. Ad esempio Jake Gyllenhaal, decisamente. Super ridiculous. Yeah. Serviva un miracolo. E ne è arrivato uno. Questa meravigliosa e speciale piccola creatura sarà una rivoluzione dell'industria dell'allevamento. I super maiali non saranno solo grandi e bellissimi. Avranno anche un minimo impatto nei confronti dell'ambiente, consumeranno meno mangime e produrranno meno escrementi. Ma la cosa più importante... avranno un sapore grandioso, cazzo. Oddio. C'è una scena molto divertente con John Denver in sottofondo. Vi prego, guardate il film perché c'è una scena con Annie Song in sottofondo. Non la riuscirete mai più ad ascoltare nello stesso modo. Annie Song e Harvest for the World. Dobbiamo mandarle in cima alle classifiche grazie a Okja. Penso sia possibile. Molti bambini andranno a vedere questo film con le loro famiglie e impareranno qualcosa. Impareranno forse qualcosa su come trattare gli animali, come trattarci l'un l'altro. E tutti, indipendentemente dalla loro età, impareranno a pensare al cibo che mangiamo e a come ci fidiamo delle persone che producono quello che introduciamo nei nostri corpi e che nutre i nostri spiriti. Penso che sia un film sulle bugie. Penso che la cosa più bella è che Okja e la ragazzina che la cura, Mija, sono le uniche persone nel film che non dicono bugie. Gli altri mentono tutti. I think it's a really modern film in that way because we're having to get used to the idea that. Penso che in questo sia un film molto moderno. Dobbiamo abituarci all'idea che mentire è facile, ma che è importante che i bambini imparino che si può dire la verità e avere fiducia nelle persone, che imparino veramente il valore dell'integrità e che crescere non significa buttare via tutto, lasciare i tuoi amici animali e diventare cinici. Non è vero. Your wonderful animal friends and become cynical. That's not true. Mija, noi amiamo gli animali. Il nostro piano è smascherare la Mirando, liberare Okja e riportartela indietro. 10 anni di preparazione per un prodotto che sfamerà milioni di persone. E che succede? Una ragazzina di campagna ci distruggerà tutti. Devi sapere che la situazione è complicata. Each night before you go to bed, my baby. Peccato aver dovuto raccontare tante piccole bugie. It was a big C'è stato un grande dibattito a Cannes se è giusto o no presentare in concorso un film di Netflix. Ho l'impressione che sia stato un dibattito sul futuro del cinema. I think it's a really interesting and important debate and where better to start it than in Cannes. Penso che sia un dibattito importante e interessante ed è giusto iniziarlo in un festival come Cannes. I festival non sono solo per mostrare i film, che sono il presente, ma anche per parlare del passato e del futuro. E questo è proprio il dibattito più attuale. How is it possible for us to get used to watching films on the end of our bed or on a tablet or on our phone or on our wrist? Come è possibile abituarci a vedere i film su un tablet, sul telefono, sul polso? È una minaccia per il cinema, quello in cui ti siedi nel buio e vedi un film sul grande schermo? Personalmente credo che nulla possa fermare le persone che vogliono farlo. Sarà sempre una cosa che le persone vorranno fare, ma sono anche entusiasta della possibilità che danno realtà come Netflix, che permettono a un regista come Bong Joon-ho di fare un film molto ambizioso e cinematografico e di renderlo disponibile nello stesso giorno a milioni di persone nel mondo. E forse questo farà venire a queste persone la voglia di vedere più film di Bong Joon-ho, magari di realizzare un giorno loro stessi un film così, e sicuramente farà venire loro la voglia di vedere sempre più film, anche sul grande schermo. C'è posto per tutti. Credo che quest'idea di un mondo del cinema esclusivo che dica questo deve essere permesso e quest'altro invece vietato, penso che sia una tendenza un po' pericolosa. Dobbiamo solo prendere un bel respiro, aspettare il futuro perché sta arrivando. Thank you very much. Thank you, Marta. Thank you. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Tilda Swinton. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.